ride today ahead with you, my friend. Peace and love and happiness without an end. All you've got to do is just stay positive. There's a brighter day ahead for you. We see prosperity for you. È il lavoratore dipendente a tutte le fortune? Quante volte l'avete sentito questo lento adagio, eh? Veramente, poi con che arroganza. E riuscite a mantenere la calma voi quando lo sentite? Io faccio fatica. We see, we say prosperity for you. There's a brighter day. E i giovani, beh. Magari i giovani, se avessero uno stipendio, un lavoro adeguato, una sicurezza sul lavoro, una possibilità, un percorso, un'idea, non dico, un'idea di futuro. There's a brighter day ahead for you. Ho voluto recuperare l'incipit, grazie a Silvia Pioggia tra l'altro, perché ha portato le prime 20 righe di un romanzo veramente molto bello, non che gli altri ci mancherebbe, ma ha un'attinenza col mondo del lavoro molto molto forte. È il romanzo che ha avuto più successo dello scrittore Luciano Bianciardi, è La vita agra. Il protagonista, che lascia la provincia e lascia la moglie, il figlioletto, per andare a vivere a Milano con l'intento iniziale di vendicare i minatori morti in un incidente causato dalla scarsa sicurezza sul lavoro. E beh, ovvio che il riferimento all'incidente alla miniera di Ribolla del 1954, in cui persero la vita 43 minatori. Ora vorrei portarlo come incipit che comprende un po' queste sempre in aumento morti bianche. Il romanzo sì, è una riflessione, oltre che scritto in maniera molto illuminata. E tra l'altro al romanzo è stato ispirato anche un film che porta lo stesso titolo, La vita agra, di Carlo Lizzani, e con Ugo Tognazzi che interpreta Bianciardi, che a sua volta è anche il protagonista della narrazione. Per cui lasciamo spazio all'incipit, eh? Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Ci affidiamo sempre alla prima impressione, quando conosciamo qualcuno, quando dobbiamo cambiare, tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa di nuovo. E allora perché non farlo con le prime righe di un libro? Chissà cosa hanno pensato gli autori nel decidere che sì, quello era un buon incipit per il proprio manoscritto. Chissà se hanno pensato a che effetto avrebbe avuto su di noi potenziali lettori. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. E voi, in base a che cosa decidete se e qual libro cominciare? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi che ho trovato nel mio girovagare per la città e scopriremo se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni. Buona la prima! Questa questa è la prima pagina della Vita Agra di Luciano Bianciardi. Tutto sommato io darei ragione all'Adelung, perché se partiamo da un alto tedesco, Breite, il passaggio a Breida è facile. E anche il resto, il dittongo che si contrae in una E apertissima e poi la rotacizzazione della dentale intervocalica, che oggi, grazie al cielo, non è più un mistero per nessuno, la si ritrova per esempio nei dialetti del Middle West americano. E infatti quel soldato di aviazione che conobbi a Manduria mi diceva «Haspero», mostrandomi il ditone della mano destra ingessato, e io non capivo. Ma poi non c'è nemmeno bisogno di scomodarsi attraversare l'oceano, perché non diceva forse «Maronna mia», quell'altro soldato? Certo Merola, della compagnia Comando, che era nato appunto a Nocera Inferiore? Le altre ipotesi, che cioè all'origine ci sia un basso ladino Braida o un latino classico Predium, hanno per me interesse minore, e in quanto al significato concordano tutte, comunque. Campus Velager Suburbanus in Gallia Cisalpina. Insomma, uno slargo, uno spiazzo vicino all'abitato, un pezzo di verde in Tramenia, dove si tenevano le fiere di bestiame e magari ci bazzicavano le prostitute a notte. Ora, siccome accanto allo spiazzo nostro c'erano le case di un tal Adalgiso Guercio, la gente continuava a dire «la Braida del Guercio». Allora, questa prima pagina mi ha incuriosito molto, devo essere sincera, ma devo essere altrettanto sincera che la cosa che mi farà leggere questo libro è la dedica al nobile amico Carlo Ripa di Meana. Ovviamente riferimenti, fatti, cose o persone sono puramente casuali. Grazie Silvia, io ne consiglio la lettura, sì, è un romanzo molto molto bello, molto toccante, è una denuncia continua sulle morti bianche, sul lavoro, sull'aspetto migrante. Vita Agra, Luciano Bianciardi, esce nel 1962. Un po' di musica con il disco Saint Bartlett di Damian Jurado. E poi, come in mostra, continuiamo a seguire la linea espositiva della Fondazione Ragghianti in quel di Lucca. Porta attenzione su un artista che indubbiamente per tutto il Novecento merita il podio, un panorama così fertile che a volte alcuni vengono, non dico dimenticati assolutamente, però per avere un risalto e un approfondimento come meritano la ricerca, il progetto scientifico, l'attenzione per un artista molto originale, Otto Hoffmann, tra poco protagonista nella rubrica In Mostra. Do you think Still trying to fix my mind.